aspettavo le gomme nuove. Non ho capito. Che le gomme nuove le volevo comprare Calvino stamattina, a Oristano, perché è sceso a Oristano stamattina Calvino, con altri tre amici suoi, in macchina. Già lo so, io me l'ha detto. Oh. Ce l'ha le cose, le gomita lì in via Venezia. Va, si fa fare un preventivo, cazzo se le mette, Antonè. Cazzo non saranno quelle 20-30 euro, cazzo, che spendono. Glielo ho detto anch'io, ho detto che passetto, quello di dietro davanti, ho detto, se ti fermo te la metto nel culo lo stesso, gli ho detto. Perché se te le controllo, anzi dietro è peggio. Perché scivoli, anzi scivola di più la macchina. Vabbè dai, ci sentiamo più tardi, dai. Eia, va bene, è più tardi, sì. E se si senti quello del melone, manda di saluto. E sarà già occupato vendendo di quei meloni, se fa la vendita come quello che c'è qui a Carbonazzi, che si metteva a Portobello, ho visto che gli hanno sequestrato la macchina, c'era parcheggiata sempre lì e non sta più uscendo in nessun posto. Avanti, chi è? Avanti, fischio. Abbiamo le pere, le aranci, mandaranci. Antonè, a te mi quello è. Adesso vado a coso, giù a dove c'è la questura, me ne danno gratis, me ne danno 3 chili di pere, di banane e di arance. Oi. Tutto baratto qua, tutto baratto. Cosa che paghi in chibi, tirano il pane, il coso, le arance, le banane, tutto ti danno. Anche la dentiera. E le diamo la dentiera a Discubi. E intanto sono arrivate a quota, mi sembra, se non mi ricordo male, gli hanno fatto quasi 800 di dentiere. Vediamo la dentiera di Scupi, della Buonanima, hai capito? Quella è già la buona, la dentiera di Scupi, sono quella di Tommy. L'altro giorno mi ha musicato, perché ho toccato a Simona. Sì, davvero, mi ha musicato, la mano ha musicato, perché ho toccato a Simona. La prossima volta per quello già mi metto quei guanti, quelli in ferro, così sa per le cose spinose, così almeno li fanno male i denti, non entrano. E tu mi dov'è? Con il cazzo a fianco a Simona. Povera bestia. C'ha freddo, ieri notte era con me, tutta la notte, dentro al letto. Non si è mosso di un centimetro, poi ogni tanto pegliavo, mi giravo io, usciva fuori, si metteva dalla parte della faccia, perché lui si deve mettere le zampette agganciate al braccio, capito? E poi lo sente sbuffare ogni tanto. Qui dov'è? Che Scubi, gliela dico, è morto, c'ho Tommy. Era morto, Scubi è morto 3 anni fa, mi pare che è morto, se non mi ricordo male. Non c'aveva neanche più denti ormai, era tutto messo male. Vabbè, non è detto che uno non c'ha più denti, non campa. Era messo male, era pericoloso anche per... lo temevo anch'io, sono arrivato a un certo punto e lo temevo anch'io perché non lo aggiurava più. Era per i fatti suoi, era già partito di cervello un po'. Capito? Quindi è morto, già c'è l'altro già è più eloquace, più tranquillo, non muore nessuno, quell'altro, quello salta, gioca, solo magari se ti presenti di scatto ti morde, ma noi che ti tiriamo un mossi che entra i denti dentro, ti tocca appena. La potevi mettere la dentiera? No, quella già me la faccio la domanda io, adesso fra poco, quando faccio il foglio easy me faccio la domanda per la dentiera nuova, cazzo. Faccio la spendere 10.000 euro di denti. Mi hanno messo 800 gratis, a gente che non aveva bisogno. A gente che non aveva bisogno? A gente che non aveva bisogno, che lavora in nero, è andata a fare, ha fatto la domanda per la dentiera, con foglio easy me l'hanno data, a gratis. Che tu hai bisogno della dentiera, va? Io ho denti da staccare, che no, ne sono rimasti pochi miei, anche a me ormai. Sono quasi tutti marci, devo staccarli a uno, dopodiché farmi fare il calco e mettimi i denti nuovi. Eh beh, mettiti due diodi e quattro finali. Il tassetto in ceramica ci metto, quelli già resistono. Gli poverino, i poveri. Ma Scooby era il pincher, così Era il pincher, sì. Scooby era il pincher. Taglia lunga. È abbastanza cattivo anche. Ogni volta che veniva una bambolina, appena la vedeva, diventava scemo, non la faceva mai entrare in casa. Figurati, si metteva davanti alla porta a ringhiarla, a abbaiare. Infatti non ci veniva mai, lo temeva. Sì, certo, all'aria. Te lo sto dicendo. Quando era vivo era una cosa allucinante quel cane, lo trovavano parecchia gente, infatti non era, ma anche il capocondume non ci veniva, dice no, vieni giù Antonio, tiro la ricevuta giù, mi diceva, non ci salgo su che c'è quel cane, mi ha detto. Strano comunque, che era così cattivo. È diventato cattivo più che altro, perché quando era piccolino gli rompevano le balle, allora... Ha preso e è diventato cattivo tutta un'ora, invece questo è diverso, tutta un'altra cosa, questo cane qua. Questo gioca e è tranquillo. Dummi, almeno quello c'ha di buono. Capito? Ma cosa potrebbe essere? Io ho un problema qua. Attacco il baracchino, no? L'alimentatore è buono perché l'alimentatore è da 25 ampere. Il baracchino è un Mobicom, è nuovo lo stesso. E si sente alternata. Come li metti la mano dove c'è l'attacco del microfono e l'alternata ti sparisce? No, proprio si sente, io accendo, lo lascio, non tocco niente, si sente l'alternata. E mettili un filo agganciato dietro, dove c'è qualche vite. E l'attacca a un termosifone o al tubo dell'acqua, non so dove vuoi tu. Così gli fa la massa a terra e scarica lì. Hai capito? No, io sto pensando che non ci sia massa a terra qua nell'appartamento. Massa a terra non ce la sarà senz'altro, perché quegli appartamenti sono vecchi, antichi, non è che siano di adesso, sono di Mussolini. Figurati. Poi bisogna vedere se quando gli avevano fatto l'intonaco nuovo, eccetera, le avevano messo magari la massa a terra il picchetto fuori. Secondo me c'ha i fili vecchi, quelli rigidi, quelli si usavano una volta. Se non sei tu che sei lì, abiti, il discorso è quello, basta che apri una presa lo te ne accorgi subito. Se non ti hanno rinnovato il comune, l'appartamento, tutti i cavilletti ce li hanno messi a norma, ti trovi l'appartamento che senza massa terra è un casino, anche per lo scaldabagno e più che altro. È pericoloso, a meno che, non lo so. A casa ce l'ho, a casa non me lo fa quel problema, qua sì. Attacco qualsiasi baracchino, mi fa alternata, sente... Poi quando parla Graziano, che siamo vicini, ancora di più, sente più alternata che lui. Poi c'è Gio Maria un po' di meno, e invece Bacchiso lo stesso arriva con un bel alternata. Figurati, allora c'è proprio venire massa a terra tu lì, sta tranquillo. Guarda se tu hai qualche tubo d'acqua, non lo so, lì, se ce l'hai lì vicino, ti prendi un filo di giallo e verde, glielo colleghi da lì all'apparecchio. Già c'è il termosifone, già c'è. Ma secondo me non è cavopiede, poi non riesco a tirare un'antenna, una base magnetica, non, 2,5 mi rimane sempre. Cata 2,5, ma l'hai provata in macchina, dai. In casa, in terrazzo, ho attaccata la ringhiera, nulla, non è scatarata. E in macchina quanto ti dà? Provata lei in macchina. No, macchina, lì c'è Luca, l'ha provata che la sua andava benissimo, a me mi dà 2,5. Strano, vuol dire che la vernice che c'è nella ringhiera, perché a volte quando la vernice è metallizzata non conduce, capito? Ci vuole la vernice normale, sempre appena metallizzata sei fregato. La ringhiera è una vernice normale, non è metallizzata. Se no deve per forza, cioè, deve funzionare. Ma nella magnetica la gomma c'hai sotto? No, ma l'ho attaccata anche diretta alla ringhiera. Ho attaccato la base della PLC 800, niente, sempre a 2,5. 2,5 è troppo, ragazzi. Strano, è come se non ci avesse massa. non so cosa dirti. Prova, dico bene, prova la macchina, sempre nella macchina c'hai uno e uno, mi c'è poco da sbagliare. Vuol dire che quella vernice che c'è nella ringhiera non ho, è quella tipo vernice tipo isolante, tipo antiruggine, che rimane tipo plastificata e cose del genere. A meno che non graffi appena, togli appena appena le vernici, come si faceva una volta per le auto, quando si agganciava la grondina e le stazioni scendevano a zero. Se no c'è l'avverso. Sì, vabbè, comunque a casa l'ho provata, è perfetto. Stazionare a casa manco ne ho, ma appena appena si muove lo lago, ma poco, quasi niente. Se l'hai provata un'altra a casa e c'è una e una, allora come ti ho detto io, quella vernice devi appena graffiare la vernice, di lì e basta. E quel tipo di vernice che c'è nella ringhiera è di quella vernice isolante. Capito? Rimane plastificata. No, io ti sto parlando dell'antenna di casa, la mantofa, quella lì, ho provato anche il coso, pensavo fosse il rosmetro, c'è un po' difettoso quel 201, HP201, però mi segna 1 e 1, capito? Invece la base magnetica non riesco a buttarla giù di sempre 2 metri, niente, non scende niente, è cambiato lo stile, nulla, aperta, l'antenna non c'ha niente, la carica è a posto, buh. Ti ho detto, prova quella magnetica in macchina. Provala, se in macchina non ne hai e a casa te lo fa, e come ti sto dicendo io, quella vernice lì che c'è nella ringhiera non va bene, devi provarla solamente in macchina, l'unico modo che poi te ne accorgi subito, per la PG 800. Boh, in macchina non è blu, non ci gana di graffare la gaffotta, a parte devo mettere quella specie di coso nero sotto, tipo adesivo, dai, ce l'ho a casa. Insomma, la porto a casa, domani glielo faccio. E metti quell'adesivo o della gomma, non lo so, intanto non succede niente. Di solito lo vendono la magnetica o con quell'adesivo grigio che si mette sotto, oppure c'è direttamente la gomma. Io li mettevo, toglievo quello e ci mettevo la stagnola, che era ricca, perché conduce di più, conduce. E adesso vediamo, va. Ma stavo che non riesco a buttarla giù di coso. Stazionario. No, come ti ho detto io in macchina, se in macchina quel difetto non te lo fa, vuol dire che la ringhiera, e quindi per poter agganciarla nella ringhiera di casa tua bisogna che li metti, fai una staffetta e li graffi e gliela metti bene, gli metti un bulloncino, un dado, quello che è fuori, e come ne fare così. Allora, il cavo è 5,50 m. Il cavo sull'originale 5,50 m della PG 800, è sempre stato così quella misura. 2,75 non ce n'è, sempre 5,50 è rimasto. Ah, io sto pensando che forse sono troppo attaccato al muro e non riesce a misurarlo. Se è attaccato al muro ci sono anche quei problemi. La magnetica deve rimanere distante dal muro, almeno un metro, capito? E la stessa cosa, a me lo conti, non ti fai un dipolo, non ci vuole molto fare un dipolo, fai 2,64 per braccio e la metti distante dal muro, da una parte e all'altra. Ma dopo poi c'è qualche problema dell'alternata? No, forse non ce l'hai proprio un'alternata, perché se c'è le staffe per stendere, capito, non fai altro che la calza, la prendi e gli metti un filo e lo colleghi alla staffa dello sedituio, capito? E così ti fa la massa. Strana la cosa, molto strana, non lo so, io pensavo che fosse il baracchino, invece, non è proprio il baracchino. A casa già non ho di questi problemi, la massa a terra c'è, auguri, c'è il picchetto fuori. Si rifà quello zio, senz'altro c'è mancanza di massa a terra. Senz'altro. Mettici un filo, lo attacchi dietro alla PL, anche lo puoi agganciare. Se non c'è quella specie di barilotto, lo vendo alla GBC, dove c'è una vite nel fianchetto, lì ci va la, in pratica si usa per le antenne, si usa. Lì ci va la massa a terra, ci va collegata fuori. Da lì lo collega direttamente alla, come si chiama? al termosifone, è fatto. Tanto il coso del termosifone mi sembra che il tubo dovrebbe essere in rame. Sì. E allora sei a posto, fai come ti dico io, ti compri, è un barilotto maschio-maschio, no, maschio-femmina, non maschio-maschio, è maschio-femmina, e c'è una vite nel fianchetto. Vabbè. La dieta baracchino l'agganci con un filo elettrico direttamente al termosifone e ti sei fatto la massa a terra. Ma anche per tutte le prese? Non c'è niente a tutte le prese, tu prendi e lo colleghi direttamente in dieta baracchino, così non c'è ronzio. Tu dici che risolvo, ma è dubito. Già risolvi, non ti preoccupare, fai come ti dico io. Quello è un barilotto che c'è l'attacco maschio femmina, si usa per tenere il baracchino quando per fargli la massa a terra, quando non c'è, capito? Allora, il ronzio si sente anche senza antenna, mi rientra nel baracchino, poi c'è un'antenna, non c'entra niente, non è un problema di antenna, è un problema dell'impianto sicuramente. Ehi, ho capito, ma fai così, vedrai che ronzio alternato te lo scarica direttamente nel coso, lì al termosifone. E la stessa cosa che prendi un microfono amplificato e lo colleghi. Se non c'è massato, secondo che il microfono, se non c'è massato, lei comincia a fischiare. Perché a me faceva così col Kingwood. Allora ho preso e gli ho attaccato il filo dietro, direttamente al termosifone. Boh, sparito il difetto. Nella saletta, quando mettevo il microfono a maletta, non fischiava più. Lo usi, vediamo un po'. A me faceva quel difetto, poi me l'avevo messo un paio di condensatori nel saletta Adriano, l'avevo aperto e me l'avevo collegato in pratica da lì all'apparecchio. Dall'apparecchio poi ho preso e ho messo un filo da lì direttamente al termosifone. Spariti i problemi, perché non c'era verso, e andavi anche al centro studio come lo faceva lo stesso difetto. Quando andavo a modulare, se ti ricordi con la Mantova, anche stazionario 1, se mettevo il microfono a 3 o a 4, e cominciava a fischiare il tempo. Allora ho preso, l'avevo staccato, lavorato a Adriano, quel baracchino di Adriano, e tu lo usi tu, e tu a casa tua, e tu che poi io, io mi sono il 2009, perché ho detto, non posso usare il tempo. Fischia, detto, perché non c'è massatella in questo cavo di appartamento letto. E così ho fatto. Ho capito. Qui sta troppo, volando. E fai così, vedrai che già ti trovi bene, non ti preoccupare. Già sparisce con l'effetto. Ehi, avevamo messo il gocco un po', che tanto tanto devo uscire anche. Stasera mi tocca uscire. Andare a fare una passeggiata. C'è un'aria nera, sta preparando a piovì, anche dopo devo uscire, devo andare a Santa Maria della Palma, adesso vediamo un poco. Va bene, allora buona dormita a stasera. Via, ciao ciao ciao. A te to ufo, dormito sì. Meno sei uffo e ti sento rosato. E ti do uffo, non mi tocchi, che ci faccio? C'è qualcuno qua? Giulio, ci sei? Gio Maria? Ma chi so? Ma chi so? Cosa vuoi? Tu non ti chiami Marchisio? Buonasera, abbiamo stato. Buonasera, signor Marino. No, ero con Marchisio poco fa. No. Ero già a me, ne catta, non venne nessuno. No, era sul 23 maestro, sta facendo qualcosa e si è attentato due minuti che non si mette Maria. Poi se ne ascolto, ma chi si ho? Io si ascolto sul 23. Aspetta un attimino che provo a chiamare sulla 27. Battisio! Battisio! Oh signor Battisio! Guarda un po' come sto andando. Parla a vedere. Guarda, mi senti? Bene, mi senti, Torre? Quando scala la radio buona, buonissima. E Gio Maria come mi ascolta? È sempre la stessa posizione, nulla. Quella posizione lì, niente. Sei col gommino però, Gio Maria. Perché non ti sente, Bacchino? Non ti sente.